Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il mondo della musica, e non solo quello, naturalmente, in lutto per Pino Daniele. Il cantante ha avuto un infarto nella sua casa, nella Maremma toscana. Da Iso Pazzo in avanti, una rivoluzione per la musica napoletana. E la sua Napoli lo piange. Iniziano le prime audizioni e ispezioni sulle assenze sospette dei vigili a Roma. Intanto a Bari il sindaco attacca gli autisti dell'azienda dei trasporti per la sera del 31. Troppi assenti, correggete o privatizzo, lo sentiremo. Dovrebbe arrivare questo pomeriggio la relazione dell'ANAS sul viadotto che ha parzialmente ceduto nell'Agrigentino. Il ministro Lupi a Radio 24, un fatto inaccettabile. La norma del decreto fiscale che avrebbe potuto favorire Berlusconi sarà eliminata, promette Renzi. Resta il dubbio su chi l'abbia inserita e restano le polemiche politiche. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti dopo due settimane di pausa nelle quali, come sapete, sono andate in onda delle puntate registrate, degli approfondimenti. Torniamo dunque in diretta da oggi e come sempre per tutto l'anno. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook come sempre, e iniziamo naturalmente da Pino Daniele. Chi voglia uscire fuori da casa mia, io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione. Abbiamo voluto iniziare da questa canzone, da Iso Pazzo, perché è forse una delle migliori rappresentazioni dell'innovazione che ha portato Pino Daniele nella musica napoletana. Ci colleghiamo innanzitutto per la cronaca di quello che è successo, di come sono arrivate le notizie, con la nostra Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, la notizia è arrivata nella notte con una fotografia pubblicata da Eros Ramazzotti su Instagram e queste parole: anche Pino ci ha lasciato, grande amico mio ti voglio ricordare con il sorriso mentre io scrivendo sto piangendo. Sgomento, incredulità, qualcuno sperava ovviamente in un'ennesima bufala della rete, ma tutti sottolineavano come non potesse essere sbagliato proprio Eros Ramazzotti. Giornali e agenzie non davano nessuna conferma perché era piena notte, erano gli artisti a dare le conferme. I Negramaro telefonano a Ramazzotti, twittano una notte senza fine, un dolore senza fine. Laura Pausini scrive: sono molto scossa e immobile nel letto. Da lì poi soprattutto su Twitter e su Facebook il ricordo dei colleghi. Che la terra sia tua, ha scritto Niccolò Fabi parafrasando quel Terra mia che aveva segnato il suo esordio nel 77, 22enne, un album aperto da quella Napule che poi è diventata un autentico inno. In tanti ricordano proprio invece quelle Io so pazzo 79 o l'album del grande successo l'anno dopo, Nero a metà. Adesso il nero è totale, ha scritto Frankie ai Energy MC. In tanti amici fan hanno postato vecchie foto con Massimo Troisi e in tanti hanno rammentato il suo ruolo di innovatore della musica napoletana e di ponte tra culture. A ricordarlo anche questa mattina l'ambasciata degli Stati Uniti che ha twittato: ricordiamo Pino Daniele, con il suo blues ha contribuito ad avvicinare Italia e America. Grazie alla nostra Marta Cagnola. Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani? Sempre la nostra Marta Cagnola lo aveva intervistato nel 2013 in occasione dell'uscita del DVD Tutta Nata Storia, Vaimo Live in Napoli, sullo storico concerto del 2008 in Piazza del Plebiscito, con cui Pino Daniele festeggiò i suoi 30 anni di carriera. Tornò a Napoli il 12 luglio dello stesso anno, sentiamone uno stralcio. Pino, voglio sapere subito com'è nata l'idea di questo DVD, visto che, insomma, immortala qualcosa di storico. È un passaggio abbastanza interessante, perché è diventato un appuntamento questo nostro rivederci. Non è che parliamo solo della mia musica, ma parliamo anche della musica di Napoli Centrale, di Don Esposito, di De Piscopo, parliamo della musica di Amoruso, parliamo musica di Onorato, di Gragnaniello, di tutti artisti napoletani che per una sera si riuniscono e danno vita ad un appuntamento che sembra che la gente abbia gradito. Sembrava impossibile che una città come Napoli, che aveva una tradizione così forte, riuscisse a creare una nuova tradizione. Esatto, esatto, ma è quello che volevamo. Cioè, veramente non ce l'aspettavamo che ci fosse questa risposta così bella, grande, positiva da parte del pubblico. Evidentemente, cioè, c'è bisogno anche di ascoltare una musica fatta di artisti messi insieme che fanno una specie di jam session, però in questo caso la jam session dà vita a una musica che ha tradizione ed ha anche un linguaggio universale, internazionale, come il blues, il jazz, la musica folk, la musica popolare. Napoli è mille color, Napoli è voce e creatur, che saglia chiaro già. Senti, un grande dispiacere ovviamente alla notizia della morte di Pino e credo come tutti i napoletani. Sto male, è triste perché comunque insieme a Troisi sono il cuore di Napoli e se ne è un altro pezzo di Napoli. Napoli è non solo amare, veramente troppo presto. Dunque, lo avete sentito dalle voci, Pino Daniele e Napoli. Per parlare di questo abbiamo la nostra Annarita D'Ambrosio in studio. Annarita. Ciao Simone. Allora. Allora, non è stato un bel risveglio. Io sono rientrata da Napoli ieri, sono come da molti. Io vivo da 13 anni a Milano, però sono nata nei quartieri spagnoli. Sono nata a Salita Trinità degli Spagnoli 13, il mio vicino di casa è stato Enzo Gragnaniello per tanti anni. Pino Daniele, io dico sempre questo, Napoli è una città che ha un'anima, non tutte le città hanno un'anima. Napoli ce l'ha, è come se fosse una persona. Io in 13 anni cerco di scendere a Napoli, anche se purtroppo non ho più tutta la mia famiglia lì, cerco di scendere ogni mese, perché Napoli è una città che ha un'anima perché manca. Oggi si è svegliata senza un pezzo, vedete voi quale, gli intervistati hanno detto il cuore. È facile dirlo, potremmo anche dire un braccio o una gamba. Comunque oggi Napoli è un pezzo in meno, ha un pezzo in meno di quell'anima. Io stamattina l'ho saputo, mi sono... prima non ci volevo credere, poi è partito tutto uno smessaggiamento con gli amici, ci siamo ricordati delle tante serate passate semplicemente in macchina, tanti sabati sera passati in macchina solo ascoltando lui. E mi è venuta in mente un'altra cosa. Io vengo da una famiglia di professionisti, a casa mia non si è mai parlato napoletano, il napoletano me l'ha insegnato Pino Daniele. Allora, grazie Anna Rita anche per questo tuo ricordo, che naturalmente tornerai in parte e anche in altre forme a riproporci domani nei nostri giornali radio. Restate in ascolto, ovviamente, molto, molto materiale, molte storie, molta musica, le interviste, trovate tutto anche sul nostro sito www.radio24.it. E adesso cambiamo decisamente argomento e passiamo alla vicenda che sta infiammando in queste ore la capitale, la vicenda dei vigili di Roma, perché oggi partono ispezioni e audizioni. In Campidoglio è il giorno degli ispettori inviati dal Ministero della Funzione Pubblica. Anche loro cercheranno di fare chiarezza sulle assenze in massa fra gli agenti della polizia locale nella notte di Capodanno. Il ministro Madia ha promesso azioni disciplinari per colpire gli irresponsabili. In giornata inizieranno anche gli interrogatori. I primi ad essere sentiti saranno i 44 vigili che non avrebbero giustificato la loro assenza. Stando ai numeri resi noti dal vice sindaco Nieri, nella notte di San Silvestro erano previsti in strada 905 agenti, di questi 767 non si sono presentati, in 571 si sono dati malati, mentre gli altri hanno usufruito di permessi per donazione di sangue e legge 104, dati inaccettabili e che si discostano in maniera macroscopica da quelli abituali, ha sottolineato Nieri. Nel frattempo è ormai scontro aperto fra Campidoglio e sindacati di categoria, già i ferri corti da mesi, mentre sul fronte politico, al fianco dei vigili, oggi si schiera anche Beppe Grillo. Per il leader del Movimento 5 Stelle, l'accanimento contro di loro ha due obiettivi: distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dall'inchiesta su Mafia Capitale e giustificare misure sempre più restrittive nei confronti del pubblico impiego. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo è il quadro quando nel frattempo si solleva un altro caso, e che riguarda le assenze dei lavoratori dell'azienda dei trasporti Barese proprio durante la notte di Capodanno. Il sindaco di Bari è particolarmente arrabbiato, lo sentiremo più tardi per capire naturalmente che intenzioni ha. E noi rimaniamo in Puglia però per spostarci a Brindisi per gli aggiornamenti sulla vicenda della Norman Atlantic. Ci colleghiamo con Marcello Orlandini, Brindisi Report, che è stato la nostra voce in questi giorni su queste vicende. Marcello, quali sono gli aggiornamenti e buongiorno. Buongiorno, oggi e domani sopralluoghi del magistrato rinviati per le avverse condizioni meteo. Siamo sotto raffiche di 35-40 nodi tramontana, quindi il fuoco viene alimentato dal vento. Ci sono a bordo squadre dei vigili del fuoco, ma anche i periti che domano le fiamme, ma nel contempo cercano di entrare nel ponte 3, quello delle cabine. Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16 a Bari, ci sarà un vertice dal procuratore capo Volpe per decidere, per fare il punto sulle indagini, ma anche per decidere cosa fare della nave, perché una volta che sarà possibile accedere nelle stive c'è il grosso problema di portare a terra, quindi bisognerà trovare un piazzale adeguato, i circa 200 veicoli fusi, calcinati, che si trovano nei garage, per ispezionarli accuratamente. Quindi occorrerà un approdo apposito con un piazzale adeguato, questo è un problema strategico, e poi si porrà anche quello dello smaltimento di questi mezzi, che sono rifiuti speciali. Non a caso oggi qui a Brindisi, assieme a un ingegnere inviato da Riva di Genova, che dovrà decidere se la nave è in condizioni di riprendere la navigazione per essere trainata altrove, ci sono anche gli avvocati e i rappresentanti dell'assicurazione dell'armatore Visentini. Grazie a Marcello Orlandini per questi aggiornamenti sulla Norman Atlantic. Le cronache dall'economia europea adesso, oggi sui mercati, una giornata nella quale si è registrata qualche tensione, soprattutto in apertura di seduta. A pesare sono sempre i timori sulla Grecia. Sono molto instabili le borse oggi, si sono avvicinate alla parità nell'arco della mattinata. Adesso il FTSE MIB c'è dell'1,7%, il FTSE All Share all'1,45%, negative sono anche tutte le altre piazze finanziarie europee, con l'euro in netto ribasso, ha toccato i minimi dal 2006 e in questo momento è a 1,191, ossia ci vuole $1.119 per comprare un euro, quindi sotto quota 1,20. Parla anche il presidente francese. la radio d'informazione, la radio... Il presidente Hollande elogia la buona radio d'informazione, sorride e risponde di buon grado a giornalisti e ascoltatori. Dopo la trasmissione lo attende il primo consiglio dei ministri dell'anno, davanti al quale enuncerà la strategia di rilancio del paese. Farò di tutto, dice a France Inter, perché la crescita sia più alta possibile, perché si superi l'1%. Ma su questo e sulla crescente disoccupazione, chiede, giudicatemi a fine mandato. Domenica, aggiunge, incontrerò Angela Merkel. Lei si aspetta che la Francia possa essere più competitiva, noi che la Germania faccia di più per il rilancio e la crescita europei. Ma entrambi desideriamo che l'Europa sia più forte e solidale. In ogni caso, non si può più identificare Bruxelles con l'austerità, dice. Quindi i greci sono liberi di votare come credono, ma devono rispettare gli impegni presi. Come del resto la Russia, che vedrà la revoca delle sanzioni solo se ci saranno progressi verso la soluzione della crisi ucraina. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E tra l'altro un portavoce della Commissione Europea proprio pochi istanti fa, parlando della Grecia e dopo indiscrezioni dello Spiegel secondo le quali il governo tedesco spingerebbe proprio per un'uscita di Atene dall'euro, dice: secondo il trattato europeo l'appartenenza alla zona euro è irrevocabile, l'euro c'è per restare. E parla anche lo stesso governo tedesco tramite il portavoce dell'esecutivo Steffen Seibert, che dice: il governo tedesco e i suoi partner lavorano per rafforzare l'euro zona nel suo insieme per tutti i suoi membri, Grecia inclusa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il mondo della musica è in lutto per Pino Daniele. Il cantante ha avuto un infarto nella sua casa nella Maremma toscana. Da Iso Pazzo in avanti, una rivoluzione vera e propria per la musica napoletana. Iniziano le prime audizioni sulle assenze sospette dei vigili a Roma. Intanto a Bari il sindaco attacca gli autisti dell'azienda ai trasporti per la sera del 31. Lo sentiremo tra un attimo. Dovrebbe arrivare questo pomeriggio la relazione dell'ANAS sul viadotto che ha parzialmente ceduto nell'Agrigentino. Il ministro Lupi a Radio 24, sentiremo l'intervista tra poco, dice: un fatto inaccettabile. E saluto Enrico Zanetti di Scelta Civica, sottosegretario all'economia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Per parlare della vicenda che sta animando il dibattito politico e lo scontro in queste ore, ed è una vicenda fiscale e che riguarda un provvedimento. Che cosa è successo? È successo, ve lo riraccontiamo, che il Consiglio dei Ministri il 24 di dicembre ha approvato un decreto fiscale che contiene una serie di depenalizzazioni per una serie di reati fiscali, appunto. Tra queste, l'innalzamento di alcune soglie oltre le quali scatta l'azione penale. L'imposta evasa, per esempio, deve superare i 150.000 euro e non più i 50.000. Le fatture false saranno reato sopra i 1.000 euro. Cambiano alcune norme e diventano più lasche quando si fatturano all'azienda spese personali. Tra queste norme, a quanto pare, nel tragitto tra via 20 Settembre e Palazzo Chigi, o dentro Palazzo Chigi, si è infilato un articolo del 19 bis. Il decreto prevede che si esclude il reato per tutti i delitti in materia di dichiarazione quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al 3%. E la norma riguarda anche la frode fiscale. Dunque potrebbe riguardare anche la condanna di Silvio Berlusconi arrivata nel 2013, quella stessa condanna che in questo momento gli impedisce sostanzialmente di essere eleggibile. Questa norma sarà fatta saltare, ha detto il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Zanetti, si è riuscito a capire quale manina ha infilato questa norma? Guardi, io il 24 dicembre in Consiglio dei Ministri non c'ero, posso quindi soltanto dire che nel testo che avevo visionato ancora il 23, che doveva essere trasmesso per il preconsiglio, la norma non c'era, quindi è stata una scelta che si è verificata in quel contesto. Devo anche dire però che è la normalità che in un sede di Consiglio dei Ministri vengano poi ripescate a volte soluzioni tecniche che durante l'iter del dibattito sono state accantonate rispetto alla bozza che viene mandata. Il Consiglio dei Ministri non è solo un luogo dove si ratifica, è un luogo dove si fanno scelte, tra l'altro ben 4 o 5, forse addirittura 5 se non sbaglio, sono state le modifiche in quello specifico decreto. Una ha suscitato comprensibilmente molto, molto clamore. In sé, al di là della questione Berlusconi o non Berlusconi, quella norma avrebbe un senso secondo lei, Zanetti? No, assolutamente, noi la contestiamo come Scelta Civica, siamo stati tra l'altro quelli che indirettamente hanno poi fatto sollevare

un, come dire, un blackout politico-mediatico. Quest'altra è una cosa piccolina che chi ha voluto introdurla, io lo rispetto, non lo condivido, ma lo rispetto, dice è meglio evitare fino a 1000 euro perché ci sono situazioni in cui a volte proprio ci sono situazioni bagatellari minime che innescano il penale, però è un ragionamento, ripeto, che si può non condividere, ma va rispettato, è un ragionamento tecnico. Io però sono d'accordo sulla frode, bisogna essere intransigenti ai massimi, quindi anche quella misura era una misura che noi non avevamo come dire condiviso, però è una questione talmente più marginale sulla quale non avremo mai acceso, come dire, i riflettori. Uno scontro propositivo interno alla maggioranza. Quell'altra questione invece siamo molto ricchi. Grazie ad Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia. Devo chiedere scusa per quello che su un giornale si chiamerebbe un refuso e che un ascoltatore con molta virulenza, per così dire, mi fa notare, ossia quando abbiamo parlato del cambio dell'euro, forse ho detto un 119 invece di un 19, ebbene oggi ci vuole un dollaro e 19 centesimi per comprare un euro, così chiariamo bene. Antonio De Caro, sindaco di Bari, benvenuto e grazie per l'attesa. Buongiorno, buongiorno. Che cosa è successo? Anche lei ha avuto un problema di assenteismo la notte di Capodanno? Ho avuto un problema di assenteismo con un'azienda, in particolare con gli autisti dell'azienda di trasporto che è l'AMTAB, si sono assentati in 109, alcuni per malattia, altri per permessi sindacali, qualcuno è andato a donare il sangue. Nei 109 non ho considerato nemmeno quelli che avevano, diciamo, utilizzato la legge 104. E questo a 10 giorni dalla ricapitalizzazione dell'azienda, ho preso un impegno di versare all'azienda in consiglio comunale 6 milioni di euro, 2 milioni quest'anno, con i soldi di un'altra azienda comunale che ha avuto degli utili per fortuna. Sembrava non uno sgarbo al sindaco, all'amministrazione comunale che 10 giorni prima, anche per tutelare il loro posto di lavoro e per rilanciare l'azienda, avevano votato in consiglio comunale. Sembrava più che altro uno schiaffo ai cittadini che poi mettono i soldi per la ricapitalizzazione, uno schiaffo invece ai colleghi che erano andati regolarmente a lavorare, lasciando a casa il calore familiare e il cotechino, come ho detto io. 109 su quanti? 109 su quanti, De Caro? 109 su 350. Okay. Mi sono sentito di dire a quelle persone che avevano utilizzato una finta malattia per non venire a lavorare, che la mia speranza era che il cotechino gli fosse andato di traverso, ecco perché poi c'è stata la polemica. Sente una cosa, De Caro, ma avete la certezza, avete aperto un'inchiesta, è chiaro che come per i Vigili di Roma, nel momento nel quale arrivano così tanti certificati medici, e come abbiamo detto, quando arriva la donazione del sangue proprio il 31, che non può essere il, chissà perché non può essere il 30 o il primo, qualche sospetto nasce, però avete aperto un'inchiesta? Ho scritto all'azienda, ho chiesto di aprire un'inchiesta, incontro i sindacati, non quelli aziendali, ma incontro i sindacati confederali, perché ho detto se l'andazzo è questo io preferisco privatizzare, così l'anno prossimo parlano con il padrone, non con l'amministrazione comunale. Ieri mi sono presentato, ieri sera, da solo con la mia automobile personale in azienda per controllare se gli operatori dell'officina stavano lavorando, perché mi aspettavo anche qualche rappresaglia, tipo non far uscire gli autobus stamattina. Cioè è andato lei direttamente, De Caro? Sì, sono andato di persona ieri sera. E contemporaneamente voglio capire se devo procedere con la ricapitalizzazione dell'azienda, visto che i soldi non li ho ancora dati, o devo pensare a una privatizzazione. Io nella ricapitalizzazione ho chiesto all'azienda di darmi in cambio qualcosa, nel senso che 6 milioni li mette il comune, gli altri 4 milioni li devono recuperare efficientando i costi, riducendoli, aumentando i ricavi e contemporaneamente trasformando un servizio oggi inefficace in un servizio più efficiente. Se la prima risposta è stata quella nella notte tra il 31 e il 1 gennaio, è stata quella, e insomma preferisco procedere con la seconda opzione, che è la privatizzazione, non la ricapitalizzazione che di un'azienda che secondo me dovrebbe restare pubblica, perché gestisce un servizio pubblico e deve assicurare il diritto alla mobilità dei miei concittadini, che insieme al diritto alla salute, al lavoro, sono diritti irrinunciabili. Ecco. Che tempi si dà per decidere su un'eventuale privatizzazione, sindaco? Ma non più di 15 giorni. Entro 15 giorni decide che tipo di risposta vuole. Voglio innanzitutto innanzitutto vedere se sono presente al lavoro e voglio capire se quello che poi l'azienda mi ha scritto nel piano di ricapitalizzazione, che per loro è un piano di rilancio, è vero, perché se devo mettere solo i soldi e poi non devo avere niente in cambio dall'azienda, l'azienda non mantiene gli impegni con i lavoratori, con i sindacati, ma anche col gruppo dirigente di quell'azienda, preferisco, diciamo, cambiare completamente e privatizzare. Non c'è niente di male, lo hanno fatto altre città, quindi dovrò sconfessare quello che ho sempre pensato delle aziende pubbliche. Quindi sono disponibile a tornare indietro a vantaggio dei cittadini, rispetto alle mie idee, a vantaggio dei cittadini. Teme che questo suo out possa condurre ad un inasprimento, per così dire, della lotta sindacale? Ne sono quasi sicuro, però diciamo, dalla parte mia ci sono i cittadini, quindi insomma non ho paura, sto per andare in procura anche a denunciare furti di gasolio, non mi preoccupo. Furti di gasolio in azienda, nell'azienda di trasporto? Sì, lo fanno da tanto tempo, avevano smesso, adesso è ripresa l'attività. Ma sospettate che siano dipendenti? Diciamo che ne abbiamo quasi la certezza. Grazie Antonio De Caro, sindaco di Bari, anche per le notizie che ci ha dato. Noi ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo tra un attimo veramente per fare un punto sui mercati, poi sentiremo anche l'intervista al ministro Lupi sulla vicenda del viadotto tra Agrigento e Palermo, inaugurato prima di Natale e che ha ceduto in un tratto a Capodanno, e poi ci collegheremo con Las Vegas perché è partita una delle più importanti fiere dell'elettronica mondiali e abbiamo là il nostro inviato. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il mondo della musica piange Pino Daniele, il cantante ha avuto un infarto nella sua casa nella Maremma toscana. Da Iso Pazzo in avanti, una rivoluzione per la musica napoletana, in lutto la città, bandiere a mezz'asta. Sono iniziate le prime audizioni sulle assenze sospette dei vigili a Roma. Intanto a Bari, come avete sentito, il sindaco attacca gli autisti dell'azienda dei trasporti per la sera del 31 e dice: correggete o privatizzo, ha dato 15 giorni di tempo, proprio un istante fa. Dovrebbe arrivare questo pomeriggio la relazione dell'ANAS sul viadotto che ha parzialmente ceduto nell'Agrigentino. Il ministro Lupi a Radio 24 dice: è un fatto inaccettabile. La norma del decreto fiscale che avrebbe potuto favorire Berlusconi sarà eliminata, promette Renzi. Resta il dubbio su chi l'abbia inserita e restano le polemiche politiche. La borsa. Borse in diretta. Una giornata nella quale si è oscillato parecchio, a questo punto sembra che si sia presa definitivamente la strada del ribasso, -1,37% il FTSE MIB, -1,19% il FTSE All Share, negativa Francoforte che cede lo 0,45%, Parigi lo 0,84%, Londra lo 0,81%. Andrea Fontana, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone. A cosa dobbiamo questi cali? Ancora la Grecia in primo piano? Beh, sicuramente la Grecia è in primo piano, per quanto dalla Commissione europea sia arrivata diciamo così la risposta alle indiscrezioni sull'uscita della Grecia dall'euro, secondo cui appunto la risposta della Commissione europea è che il trattato europeo prevede che la scelta dell'euro sia irreversibile, ma insomma i sondaggi che vedono Siriza come in vantaggio nelle elezioni greche di fine mese, e poi chiaramente la questione, il fattore petrolio con il greggio che oggi ha toccato nuovi minimi dal 2009, sono stati fattori che hanno innescato le vendite sull'Europa, in particolare su Milano, anche perché Eni ne ha risentito particolarmente perdendo quasi il 4%. Naturalmente, ci dicevi ci sono anche segnali sull'euro che tra l'altro in questo momento scende ancora come quotazione, no? Sì, l'euro ha toccato i minimi da 9 anni, è sceso sotto gli 1,19 dollari, chiaramente è una pressione figlia in buona parte dell'attesa delle mosse della Banca Centrale Europea. Ancora pochi giorni fa il presidente della BCE Draghi ha indicato nel corso di un'intervista come ormai imminente la scelta di un programma di acquisto di asset che dovrebbe includere anche i titoli sovrani, ma chiaramente da questo punto di vista si aspettano anche i dati dell'inflazione. Oggi ci sarà tra pochi minuti l'inflazione tedesca di dicembre e mercoledì quella dell'Eurozona. È chiaro che con un petrolio così a ribasso le prospettive dell'inflazione sono ulteriormente preoccupanti per la BCE, e questo potrebbe accelerare chiaramente l'intervento di Francoforte. Anche se naturalmente c'è un parziale riequilibrio che arriva proprio dall'andamento del prezzo dell'euro, perché lo ricordiamo, il petrolio è quotato in dollari. Eni, come si dice, a -3,7, Tenaris -2,25, Saipem -2,22, giù anche Intesa San Paolo del 2,28%, Enel del 2,01 e altri bancari negativi, 1,8 UbiBanca, giù dell'1,5 UniCredit. Va bene invece Luxottica, che guadagna il 2,16, il Monte dei Paschi che guadagna l'1,41, la Pop Milano lo 0,44, in perfetto pareggio Fiat Chrysler. Grazie Andrea Fontana e buona giornata. Buona giornata a voi. In collaborazione con borsaitaliana.it. Con tutta la tecnologia che trovi da MediaWorld si potrebbe coprire la circonferenza della Terra. Questo per noi è farti scegliere. Fino all'11 gennaio notebook Lenovo col 20% di sconto a €279. MediaWorld. Voglio il mondo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E veniamo alla vicenda del viadotto, altra vicenda che sta un po' animando il dibattito in queste ore, perché dovrebbe arrivare questo pomeriggio la relazione dell'ANAS, un viadotto sulla strada tra Agrigento e Palermo, inaugurato prima di Natale, che ha ceduto in un tratto, da un lato naturalmente, a Capodanno. Lo scorso 7 luglio nell'Agrigentino, tra l'altro, il ponte Petrusa sulla statale 626 Ravanusa Licata crollò per un cedimento strutturale mentre transitavano 3 auto, e non sono i primi casi che avvengono in Sicilia. Allora miracolosamente 4 persone, tra le quali una donna incinta, se la cavarono con lievi ferite. Sulla vicenda nello specifico di ieri, Anna Migliorati ha intervistato proprio ieri sera il ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi. Dunque sentiamo. Surreale mi sembra già una definizione positiva, purtroppo è la drammatica realtà. Si stanno facendo tutte le, non solo le giuste ma le doverose indagini, meno male che ANAS ha chiuso in anticipo quel tratto subito dopo aver verificato che c'erano dei problemi. In ogni caso anche adesso ho finito di parlare col presidente dell'ANAS, Ciucci, e dobbiamo assolutamente verificare di chi sono le responsabilità e quali sono le cause. Non è pensabile che un tratto appena aperto possa poi presentare problemi strutturali di questo genere. Avete intenzione di aprire in qualche modo un'indagine ispettiva? Si è già aperta nei giorni precedenti e stiamo verificando ovviamente quali sono anche le cause dirette o indirette. Ma qualunque sia la causa, è evidente che è un'opera appena aperta e con le tecnologie ovviamente che oggi ci sono non può presentare questi problemi. È assolutamente inaccettabile, tanto più nel momento in cui noi stiamo accelerando la realizzazione di tutte non solo le grandi opere, ma anche appunto la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti, proprio per mettere la sicurezza al primo posto. Non era stata segnalata nessuna anomalia nell'appalto affidato? Dai primi riscontri che mi ha dato prima il presidente dell'ANAS, tra l'altro questo appalto è stato assegnato a delle imprese non piccole, quindi che già lavorano per ANAS e sono imprese molto qualificate che hanno realizzato anche altre opere importanti e quindi potevano tutte le tecnologie e la capacità per poterla realizzare. Detto questo, ovviamente non si trascurerà nessun particolare. Che lei sappia, questa impresa ha ancora altri cantieri in essere? Sì, ma sono imprese importanti in Italia. La CMC è un consorzio di imprese, CMC e Technics, da quello che mi risulta, e quindi hanno tantissima qualificazione, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Quindi c'è da capire cosa è successo, insomma. C'è da capire che cosa è successo. Mi stupisce la cosa, però come ho detto, ormai sembra purtroppo che non dobbiamo decisamente a capire le ragioni, a capire di chi sono le responsabilità, ma evitare che riaccada, perché questo è il punto vero. Si apre la più importante fiera mondiale dell'elettronica, Las Vegas, dove si trova il nostro inviato Enrico Pagliarini. Enrico. Eccoci Simone, buongiorno a tutti, vi parlo dal Consumer Electronics Show di Las Vegas, in realtà da quello che si chiama Consumer Electronics Show Unveiled, cioè una sorta di anteprima di quello che vedremo da martedì. Oggi la Consumer Electronics Association americana, che è la Confindustria di settore americana, ha mostrato alcuni numeri sul mercato dell'elettronica di consumo in tutto il mondo e gli smartphone rappresentano ancora oggi il prodotto principale con una quota del 40% circa sulla spesa globale, ma per la prima volta direi non si parla quasi di nuovi smartphone al Consumer Electronics Show. Verranno sicuramente presentati nuovi telefoni, ci sono state già delle anteprime, ma non è certo questo il prodotto su cui c'è attenzione, potremmo dire su tutto quello che gira sugli smartphone. I trend che vediamo si concentrano su smart home, tantissimi prodotti relativi a quella che una volta chiamavamo domotica, molte applicazioni pronte a l'uso per automatizzare la casa, a partire da tantissime soluzioni di allarme, tutte wifi o comunque molte wifi, vari sistemi di controllo basati proprio sul wifi, uno li compra, li mette in casa e tutto funziona o dovrebbe funzionare, ma anche ad esempio elettrodomestici da comandare via smartphone. Alcuni prodotti sono interessanti, altri hanno un'utilità sicuramente discutibile, perché uno potrebbe domandare, io ho domandato, ma naturalmente poi chi vende dice che è utile, quale utilità c'è di comandare un bollitore o un frullatore con lo smartphone. Forse se uno ha una casa molto grande come le case americane può anche avere un senso comandarlo da una stanza rispetto all'altra. Altri trend, o potremmo dire il grande mega trend di quest'anno, ancora una volta oggetti da indossare, wearable devices. Il trend certo non è una novità e non dobbiamo soprattutto pensare solo ai braccialetti o agli orologi di cui si è parlato tantissimo. Ho appena visto ad esempio una giacca per ciclisti che ha alcune luci e grazie ad alcuni sensori come gli accelerometri accende le luci arancioni sulla manica quando si sposta il braccio per segnalare che si sta svoltando. Tantissime cose di questo genere, ad esempio un pedale per bicicletta, non è un prodotto che si indossa ma è sicuramente un prodotto che funziona grazie a questi sensori, lo si attacca a una bicicletta dentro un GPS e serve ad esempio per allarme, quindi possiamo vedere la bicicletta che eventualmente ci viene rubata, ma serve anche per vedere, per osservare sul nostro smartphone tutti i movimenti che facciamo. Domani ci saranno alcune anteprime importanti, poi a partire dal martedì la fiera aprirà, quindi potremo vedere tutti i prodotti che verranno presentati al Consumer Electronics Show. La linea torna allo studio. Grazie al nostro Enrico Pagliarini per questi aggiornamenti da Las Vegas. Un'ultima notizia prima di sentire che cosa succede sulle strade e riguarda, se vogliamo, anche tutta la vicenda dei Vigili di Roma, oltre che un dibattito che si è aperto nelle scorse settimane in merito al Jobs Act, ossia la riforma del mercato del lavoro. Riparte già questa settimana, si apprende l'esame del disegno di legge Madia sulla pubblica amministrazione in Commissione Affari Costituzionali al Senato. L'appuntamento per l'esame del testo, sempre più atteso dopo appunto tutte queste polemiche, è per giovedì 8 gennaio nel pomeriggio. Questa notizia arrivata pochi istanti fa. Noi ci fermiamo, sentiamo il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Musica hawaiana, è musica hawaiana perché? Perché la vacanza è finita, Barack Obama rientra dalle Hawaii dopo 16 giorni di meritata vacanza e si troverà a partire da domani a Washington un congresso a maggioranza repubblicana. Lo sapevamo, ne abbiamo parlato, ma da questa settimana, da questo 2015 ormai di lavoro, parte una nuova fase